perché l'altra volta era fermo, non si muoveva niente. E infatti non sapevo se uscivo di radio, se non uscivo. Adesso vedo che funziona. Prova. Sì, una bomba è, oh Luca, una bomba. Perfetto, veramente. Ehi, dai. Dai, se nel caso che sia ancora in frequenza ci sentiamo da giù, che devo scendere a portare le medicine alla mia 25. Ok. Io già stavo ascoltando, ma è troppo basso, non ti sentivo malissimo, c'era QRM. Ma mettiti un antennino, non puoi mettermi qualcosa del genere. Fai come ho fatto io, guarda, io mi sono fatto un'antenna a canna da pesca, però naturalmente c'ero in terrazzo su. E dunque, ma è lunga, quella è lunga, 7 metri quasi. Così farò, dai, c'ho una canna da pesca in garage. Adesso vedo di fare qualcosa, ci metto un capo dentro, dai, poi adesso glielo dico a Luca, me la faccio fare da lui. Dico di darmi una dritta, ma giusto per non avere stazionarie troppo alte, perché con quella magnetica sono a 3. E infatti ieri il baracchino dietro stava friggendo proprio. Ma quella magnetica non va bene, non è mai andata bene anche la magnetica, a parte il fatto che vuole sulla macchina per essere funzionale, no? Però ho sempre avuto problemi. No, io avevo preso una canna da pesca da Decathlon, 16 euro, lunga 7 metri, e l'ho fatta lì. Ho fatto la bobina, ho guardato il computer, guarda, tu apri il computer, apri, e ci sono tutte le caratteristiche che vuoi, non puoi sbagliare. Io l'ho fatta, il primo colpo è andato benissimo, l'ho messa nel terrazzo per controllare le stazionarie, e non c'è stato più bisogno più di toglierla, c'era più di un anno, e mi tengo sempre quella, senza radiale, senza niente, una canna da pesca, lunga 7 metri, una bobina e un pezzo di filo elettrico normale, metà e metà praticamente, metà di H155 ho messo, e l'altra metà è un filo elettrico normale, ha un polo, ha un cavolo, capito? E funziona, non ha stazionario, non ho fatto i buoni, è perfetta, pensa che l'antenna è attaccata all'antenna della TV e non vale di nulla, sai cosa vuol dire nulla. Allora farò così, giù, dai. Farò così, dai, adesso vado veloce a portare queste medicine che non sta bene. Nel caso magari attacco giù, dai. Ieri non mi sentivi comunque perché stavo uscendo a pochi watt. Ok, vabbè, ma io perché adesso quando che sto uscendo? Io sto uscendo con 3 watt appena. Un baracchino vecchissimo sto usando, di quelli di 40 anni fa, per cui ti puoi immaginare, eppure va benissimo. E nonostante che l'antenna è bassissima lì, non è al posto dove c'avevo prima la Mantova Turbolo, che poi la Mantova ce l'ho sempre, però l'ho smontata, l'ho messa lì in terrazzo, l'ho messa per terra, qualificata per terra. E stavo dicendo, e devo dire che ha le stesse caratteristiche della Mantova Turbolo, perché se la metto in alto, dove c'era la Mantova prima, che era 6 metri più in alto, sono convintissimo che ha lo stesso segnale, forse anche di più, per dirti, no? È andata a dare il primo colpo, ripeto, io ho scritto sulla tastiera del computer, ho scritto costruzione, costruzione, dei master, spiegazione, ecco, proprio con le altre parole. Ho cliccato e è venuto fuori questo sito dove ci sono tutte le spiegazioni, guarda, è una meraviglia, guarda, veramente. Va bene, giù, dai, ci sentiamo dopo magari, o sono stasera, tanto sono a casa, dai, giù. Penso che rientri verso le 7:30 qua, ma riprendo da qua, con una mezz'ora, non so. Dai, ci sentiamo stasera, buon pranzo Giulio, ciao. Ok, ciao Luca, a stasera, ciao.